Care amiche, cari amici, kedves barátaink, benvenuti a Brusselando. Wow, che bella presentazione. Piace. È un po' ungherese, un po' sottotono, un po' dimessa, un po' così ritirata, un po' sì, perché non osavo, cioè, senza la Maridì. Cari amici, cari amiche, buonasera. Ma adesso questo era Mary D, invece io sono cari amici, cari amici, perché un po' la distinzione devo fare. Cari amiche, cari amici, buonasera, benvenuti a Brusselando, nuova edizione. Come nuova edizione? Sì, c'è nuova edizione perché manca Mary D, quindi è una cosa un po' improbabile. Dai, che Mary D è qui con noi. Certo che Mary D è qui con noi. Mercoledì la salutiamo. Certo, la salutiamo. Ricordiamo che la settimana prossima ci sarà l'ultima puntata e tutta la squadra sarà al completo. Come no. Tutta la squadra sul completo, tranne Mary D, il regista Jean Sorin, quindi c'era solo Fiordaliso? No, vabbè, dai, c'è anche, non lo so, lo studio. Dai, c'è anche lo studio. Allora, beh, cominciamo questa puntata un po' diversa dal solito e vediamo di capire che cosa ci riserva questa puntata. Beh, innanzitutto avremo un po' di agenda e poi una sorpresina, di solito abbiamo degli autori, dei poeti, e poi a volte parliamo anche di spettacoli. Beh, questa volta abbiamo una cosa che è un po' un misto di tutto questo, un poeta, un po' spettacolo, un po' ambiente, un po', ma ce lo faremo raccontare fra poco dalla diretta voce del creatore di questo evento e avvenimento. Bene, mentre io adesso qui fa troppo caldo, lo studio come al solito fa molto caldo, beh, direi di poter cominciare con non ci lamentiamo del caldo, please, che vi ricordo che in maggio c'era una temperatura media di 10 gradi, scusate, e in maggio è anche nevicato, se per questo, ma vabbè, ha nevicato pure in Italia. Mi ricordo che a Cortina poco prima che scendessi mi ha detto nevicato ieri e c'era 23 gradi a Cortina. Vabbè, qui siamo un po' più a nord di Cortina, quindi no, non ci possiamo lamentare del caldo, dico solo fa caldo, quindi è bene non mettersi il cappotto, che io avevo il cappotto addosso, quindi qui di Cortina c'è stata solo la primavera. Non l'ho capita. Vabbè, ti picchio dopo. Che bello avere anche il regista che interviene, insomma, dall'acquario, invece di avere solo l'acquario abbiamo anche la voce del regista, ciò che mi fa alquanto piacere. Beh, allora, Imola, abbiamo qualche novità? C'è qualcosa in questo Bruxelles caldo, in questo Bruxelles che sembra risvegliarsi come una città del sud dell'Europa invece che del nord dell'Europa? Sì, comunque a Bruxelles pensano sempre ai poveri che rimangono qua a lavorare durante l'estate. Per esempio, c'è della bella musica classica. Per esempio c'è il Festival Ars in Cattedrali, che se lo traduciamo sarebbe arte nella cattedrale, cioè la cattedrale San Michele e Gudulla è una femmina, questo lo so io, e quindi è Gudulla, quindi San Michele e Gudulla, che è già cioè io mi ricordo la prima volta che l'avevo visitato avevo visto quell'organo bellissimo, mi sono detta oddio. Cioè, quindi, no, l'organo particolare, diciamo, perché è montato sul lato della chiesa, poi c'è, sì, ci sono altre cose belle in quella chiesa, e stavolta ci entra anche la musica, tutte le martedì, nei mesi di luglio e agosto, dalle ore 20, ci sono dei concerti. Stavolta il tema è Bach, il barocco e il neoclassico, e quindi una lunga lista di artisti che partecipano a questa iniziativa, che è meglio se consultate sul sito www.cattedralsaintmichel.be invece di ascoltarmi a cercare di fare l'elenco. Ecco, quindi ogni martedì alle ore 20 nella cattedrale San Michele Gudulla. Ma bene. ottima musica di Bach. Che cosa ci potrebbe suonare di Bach, per esempio? Ma non lo so. C'è scritto qualcosa? Chi lo sa? Se ci avvertono, si dicono solo Bach. Solo Bach, non c'è né Mozart. No, Bach, ah, capito, barocco nel classico, quindi saranno robe diverse, degli autori anche diversi, però non sappiamo il programma. Non conosciamo il programma esatto, quindi no. Bisogna andarsi a informare. Hai dato un sito web e vabbè. E poi c'è anche un numero di telefono, no? Beh, comunque la cattedrale di Saint-Michel Goudoul. E dovremmo fare una puntata sulla importanza dei numeri di telefono nei giorni di oggi. Sì, quanta gente va a visitare piuttosto i siti per capire un programma che telefonare? No, è vero. Sì, hai ragione, in effetti è vero. Però bisogna avere a disposizione un computer. Non tutte le fasce di età hanno a disposizione un computer e uno smartphone. Perché il tartufone è una cosa per i giovani, che sanno usare i giovani. Che infatti non hanno voglia di molto comunicare e non hanno bisogno di tariffe telefoniche particolarmente ridotte o vantaggiose, perché loro vogliono gli SMS infiniti. Questa è una cosa che io ovviamente dall'alto della mia vecchiaia non potevo capire, ma invece i giovani hanno bisogno di SMS, cioè colloquiano per scritto. Ed è una cosa che da un lato è molto bella, dall'altro però la rapidità. Io ho sentito cercare una volta anche di romanzi fatti via SMS. Sì, c'erano anche dei romanzi concorsi. Romanzi collaborativi. C'erano anche dei concorsi. Dalla regia ci fanno il cenno di una ruota che gira, che nel linguaggio tipico della regia di Radio Alma significa il nostro ospite arriva un po' più tardi. Ma vabbè, io non so cosa dire, io George, sto scaldando, ma infatti ti vedo in mano con qualcosa. Ma sì, io direi che per scaldarci possiamo ascoltare un bel brano che ci ha gentilmente fornito Max dei Chaltro Knight, che è venuto un paio di settimane fa qua in studio, ci ha regalato il suo CD, quindi secondo me potremmo ascoltare un bel brano per scaldarci. Il nostro ospite lo contatteremo tra circa 7-8 minuti, per cui direi che, ragazzi, secondo me un po' di musica andrebbe, va bene. E no? Ascoltiamo questo Chaltro Knight. E la canzone si intitola? Una bellissima musica, Chaltro Knight. Ovviamente in questa non credo ci fosse il titolo, ma sarebbe stato difficile trovare un titolo. Forse il titolo era Pupuri. No, il titolo si chiama Medley Abba. Infatti quindi ho detto Medley è Pupuri. Però omaggio agli Abba, che ragazzi. Omaggio agli Alba, che hanno inventato un pop, un genere tutto loro, e sono esplosi. Bellissimo, bellissimo. Devo dire che c'è anche un altro che ha inventato un genere suo. Una persona che non è molto. Non, secondo me è un genere suo. È una persona che non è molto. So, chi ha chi piace, chi no, insomma, un po' contestata. Si chiama Allevi Giovanni. Si chiama Giovanni Allevi, insomma, vabbè, a me la sua musica piace. Il quale Giovanni Allevi ha dichiarato oggi che Beethoven non gli piace perché ha poco ritmo, mentre Jovanotti ce l'ha. Detto su Twitter. Il che... È indiscutibile. È discutibile? No, è indiscutibile. Se noi mettiamo a confronto Jovanotti con Beethoven, sicuramente. Sì. No, in effetti è vero, è che fare il paragone, come dire, ma non, c'è la musica africana del secondo millennio avanti Cristo, mi sembrava un po' troppo ritmata, povera di altre sonorità, una musica in qualche modo limitata, e c'è, che cavoli, come si fa a fare, io vorrei sapere come si fa a paragonare la musica pop odierna con quella classica. George, questa cosa proprio non la capisco, come pere e mele, musica ma di tutt'altro tipo. Sono d'accordo con te, ma per chiudere la querelle direi con un'espressione di Elio: a Giovanni Allevi piacciono le canzoni molto intense. Il grande Elio, molto intense. È vero, a Giovanni Allevi piacciono le musiche intense e a noi invece piace stare qui a Radio Alma, anche se... Anzi, meglio con il caldo. Dai, ragazzi, che c'è un po' di agendina, un po' di robina, bella. Ma l'agendina la vediamo dopo. O vogliamo vedere qualcosa? C'è qualcosa? Beh, una cosa, dimmi. Adesso nel Museo Magritte hanno cominciato a vendere delle litografie che non sono litografie. E che cosa sono? Beh, se è un museo di Magritte, le litografie non sono tipicamente litografie. questa litografia non è una litografia. Questa litografia non è una litografia. Comunque c'è anche una esposizione di 50 litografie diverse e di 10 sculture che sono state fatte in base a opere di René Magritte, e questi sono anche in vendita. E questa sarà una vendita permanente, quindi potete andare al Museo Magritte per ammirarli e eventualmente comprarvi. Ovviamente il Museo Magritte vale la pena anche senza il desiderio di comprare delle litografie. Io ho un bellissimo ricordo della mia prima visita, che ho ancora ripetuto con altri, con degli ospiti che sono venuti a Bruxelles, e devo dire che è stata sempre una stazione apprezzata. Beh, insomma, Magritte è Magritte. Magritte è Magritte, smuove la fantasia, direi. Devo dire, non so, il fatto che Magritte esista e sia belga, belga, conferma quello che io penso o no? Scusa, ma ho perso le mie capacità di chiaroveggenza. Io penso che i geni nascono dove gli pare a loro, punto. Indiscutibile anche questo. Cioè che non siano un fenomeno culturale. Non siano al parto di una cultura, siano al parto di se stessi, per cui quel che hanno lo usano, sono dei geni comunque, punto. Beh, il famoso Beethoven, di cui i ritmi sono meno pronunciati rispetto al Jovanotti, anche lui è nato in una famiglia che non era molto... che è nato in una famiglia da cui non era probabile che un genio della sua envergura nascesse. Sì. Ne conosco un altro, il genio di matematica, che anche lui proviene da una famiglia insospettabile. Quindi i geni nascono un po' dovunque, non solo da famiglie che non possono vantare, se mi consentite, un pedigree, ma io vorrei negare quello che ho appena detto, perché non esistono, io non credo ai pedigree di nessun tipo, di nessun genere, se non per i cani, perché li ho visti, c'è una certa differenza. Ma tutto il resto, l'uomo no, l'uomo è questa... cosa strana, per cui riesce a produrre delle cose incredibili, nei modi più incredibili, nei posti più impensabili. Mi viene in mente un personaggio che amo particolarmente, e che è un tal Nikola Tesla. Personaggio un po' oscuro, non si capisce bene, una storia non troppo chiara, sebbene non sia un vecchio personaggio, cioè voglio dire, si potrebbe sapere tutto di Nikola Tesla, ma in realtà non si sa molto. C'è sempre un po' di allora, di mistero intorno alla sua figura, e mi serve soprattutto... mi sarebbe piaciuto soprattutto conoscere il funzionamento della pompa reversibile, pompa d'acqua reversibile, che però mi sa che non riuscirò mai a scoprirlo. E vabbè, pazienza. Nikola Tesla, un genio, un altro genio che però dal mio punto di vista è estremamente affascinante. Bene, io credo che sia arrivato il momento. Vedo che il nostro regista si sta affannando un po' al telefono, ma forse non è ancora il momento, forse abbiamo il tempo invece per dire qualcos'altro, non lo so, vediamo cosa si dice. Dunque, se passiamo dal Museo Magritte a che cosa? Al Marol. Beh, questo forse del Marol ce lo dobbiamo tenere. Andiamo invece adesso a vedere, a scoprire il nostro ospite, a sentire che cosa ci racconta su questa avventura che ha a che fare con una zattera, con un fiume, con un parco, con l'arte, con l'ambiente. Chissà come si mescoleranno. Loris. Buonasera Loris, benvenuto a Radio Alma in un giorno caldo, finalmente caldo a Bruxelles, sembra di restare in Italia. Allora, io ho lasciato un po' di mistero su questo evento, quindi lascio a te la parola e spiegare che cos'è questo evento. Io ho parlato solo di zattere, di acqua, di parco. Sì, questo è il titolo, e di arte. Ecco, andiamo avanti. Sì, si tratta, il titolo ovviamente di questo evento, di questa seconda rassegna, è La zattera dei poeti. Si tratta, in parole povere, di un evento che si svolgerà il 27 luglio alle ore 18 al Parco della Golina del Furlo, che è? Comune di Acqualagna, in provincia di Pesaro Urbino, nel Marche. Ah, molto bene, e, molto bene. In realtà è un vero e proprio luogo dell'anima, la Gola del Furlo, perché ha circa 190 milioni di anni ed è ancora percorribile sia per via fluviale che per terra. Però, e su questo fiume, il Candigliano, che è il fiume che attraversa appunto la gola, verrà situata una zattera, che è un'opera d'arte di uno scultore, Antonio Sorace. Bene. E che insieme a Randerina De Tomassi gestisce la casa degli artisti, appunto del Furlo, e hanno, che hanno dato vita a questo evento. E hanno chiesto a me come curatore di selezionare 21 poeti che leggeranno, si alterneranno sulla zattera, leggendo le proprie poesie. Quindi cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo. Allora, c'è una zattera sul fiume Candigliano, dalla quale dei poeti declamano i loro versi, sì. E poi li gettano in acqua? C'è anche un movimento di foglie, c'è anche... No, ci sarà una zattera fissa sul fiume, sul quale si alterneranno i poeti per una lettura. E quindi sulla zattera ci saranno alternati prima un poeta, poi un altro, al massimo accompagnati da alcuni musicisti. Bello, e questo avviene durante una sera o più sere? Questo avviene dalle ore 18 in poi. In realtà si era partiti appunto con l'idea di una lettura, poi a poco si stanno interessando all'evento anche altri artisti, per cui è diventata una vera e propria chiamata alle arti, per cui ci saranno anche pittori e altri artisti che parteciperanno all'evento e renderanno vivo un luogo che a poco in questi anni si sta perdendo. Per cui poi la poesia è un escamotage attraverso cui con il poetico si può recuperare il bello sia dell'arte che della natura di un luogo perso, contro poi il brutto di questi tempi che stiamo vivendo. Perché è un luogo perso? Perché è quasi stato abbandonato il centro del Furlo, il vecchio centro del Furlo è quasi stato abbandonato, perché ci troviamo all'interno dell'entroterra marchigiano, per cui l'inizio di questa manifestazione, a differenza della precedente, perché questa è la seconda edizione, partirà proprio dal centro del Furlo. Ci sarà un attraversamento poetico che raccoglierà le persone e arriverà sino alla gola del Furlo, in cui ci saranno poi sei fermate, in cui ogni poeta leggerà qualcosa, accompagnati ovviamente dalla musica e da due grandi artisti, un chitarrista, Antonio Nasone, e una delle voci giovani più importanti in Italia, che è Frida Neri, la voce di Frida Neri. Quindi saremo accompagnati in questo percorso. Beh, bellissimo questo luogo qua. Perso, perché appunto luogo della memoria che si sta perdendo. Beh, così insomma c'è questa processione poetica addirittura con delle stazioni, quindi c'è un riferimento e un rimando immediato a un altro tipo di processione, tipo religioso. Sì, beh, in questo caso totalmente eretica, o comunque sì, in realtà diciamo le stazioni sono quasi, come dire, in questo caso più delle stazioni ferroviarie, come se fosse una lunga serpe che si muove, sono come delle soste, ecco, in cui verremo ospitati all'interno di alcuni luoghi, che possono essere il museo, il vecchio antico Furlo, che è il bar del luogo. Quindi verremo ospitati come se fosse, diciamo, un attraversamento un po' anche felignano in questo caso. E ancora una domanda sulla ragione della zattera. Perché una zattera? Perché declamare da una zattera? Perché la zattera è l'allegoria stessa della salvezza in un naufragio temporale come quello che stiamo vivendo, e quindi è l'allegoria, come dire, precisa del momento, e lo scopo è quello appunto, attraverso la poesia, di salvare il bello o quel poco di bello che rimane in questi tempi. Quindi non... Per cui questo è il punto di partenza da cui l'artista appunto Antonio Sorace è partito per realizzare quest'opera. Quindi dal buco in cui ci troviamo, dalle tempeste, dalle onde che ci sovrastano, sì, troviamo una zattera che è la nostra salvezza. Sì. E con i poeti che ci indicano la strada anche? Con i poeti che possono lasciare un segno forte e possono essere anche il superamento anche della divisione, in questo caso anche artistica, perché come dicevo molti altri artisti si sono poi aggregati a questo progetto. C'è un'associazione molto molto importante di Pesaro che lavora appunto con la pittura, il disegno, fa tantissimi laboratori che Artem porterà il suo contributo, quindi si sta allargando e lo scopo appunto è quello, sta diventando quello di una vera e propria chiamata alle arti, per cui ognuno può lasciare il suo segno vivo. E infatti i poeti che ho chiamato sono per lo più giovani, anche per dare un senso poi di vitalità forte, anche se alcune delle voci sono già ben riconoscibili, come quella appunto del poeta Davide Nota, di Stefano Sanchini, Elena Benvenuti, Natalia Facci, Daniele De Angelis, che sono autori già, pur essendo giovani, che hanno già trovato una loro identità forte. Loris. Poi se volete posso anche leggervi un testo di uno di questi poeti. Ah, sicuramente ci farà piacere. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi possiamo prendercelo un po' con calma. Sì. Mi stavo chiedendo, quando tu hai detto una vera e propria chiamata alle arti, bellissimo questa ripresa, chiamata alle arti. Che cosa può fare la poesia? Cioè, la poesia veramente può cambiare il mondo, o ha la forza di cambiare il mondo? Qual è la vostra visione, il messaggio? La zattera che è una salvezza e i poeti che declamano, per portarci dove? Ah, ovviamente, io ho avuto la fortuna, a parte da un esempio, ho avuto la fortuna di incontrare nel mio pur breve percorso uno dei più importanti intellettuali italiani, Roberto Rovezzi, che insieme a Pasolini fondò Officina, è stato uno degli intellettuali più importanti del Novecento italiano, scomparso da pochissimo. E lui mi raccontava che ogni mattina ancora, all'età di quasi 90 anni, di svegliarsi, di poter ogni mattina ancora cambiare il mondo attraverso l'arte. E questo è un po' fondamentalmente la forza, la possibilità che noi ci diamo in questo momento. Anche perché, visti i tempi che stiamo passando, non abbiamo nulla da perdere. Anzi. E ovviamente l'arte è il fondamento dell'esistenza. Sì. Le sue forme. L'arte è un artigiano, poi lo guardi vale doppio, quindi tipo tutto il canto in natura è sempre un insieme di memoria e sentimento, per cui se ci manca il sentimento, spesso l'arte è l'unico modo per riuscire a tirare fuori qualcosa. In questo caso la memoria, poi è anche una memoria, noi italiani spesso abbiamo una memoria individuale forte, ma non certo una memoria collettiva. No. E la natura spesso lo è, come è una memoria collettiva. Certo, vale. Questo è assolutamente d'accordo con te. Può essere anche un filo che riesce a recuperare. E quindi una zattera emotiva che con il filo delle emozioni ci spinge a vedere un nuovo orizzonte, a riscoprire che nel nostro passato, che è la gola del Furlo, che è lì da 190 milioni di anni, in realtà c'è anche il nostro futuro. Sì. E soprattutto c'è un ritorno, una necessità, cioè tutto ciò che noi abbiamo pensato, la direzione che abbiamo preso in questi ultimi 40-50 anni probabilmente non era la direzione giusta, e questa riscoperta o un ritornare è una necessità forte anche per riscoprire una parte di noi stessi, perché è fondamentale. E tutto questo ovviamente ci supera, come dire, quell'idea anche della poesia di individualità, cioè in questo caso si torna a una collettività di voci che hanno un senso anche, che è quello comunque di trovarsi anche in un luogo fisico. E anche in un luogo scritto. Tu mi dicevi, Loris, tu mi dicevi che avevi una poesia sotto mano, ce la puoi leggere? In questo caso, sì, se volete vi posso leggere un testo di uno degli autori che parteciperanno alla zattera. Sì, ho la sensazione che sia una poesia che si, diciamo così, si inserisce in quello che stavamo dicendo. Sì, beh, il titolo poi è La Pruna, per cui già certo. Ha un senso forte rispetto a tutto il senso. Ed è un testo di Francesco Arcacchi, il poeta di cui ho fatto cenno precedentemente. E da poco è uscita una sua opera, lunga un anno, per una casa editrice molto importante italiana, la Sigismundus Editrice. E questo è un piccolo testo che è contenuto appunto in questa raccolta. Io ve lo leggo, pur non essendo un lettore, spero di leggervelo bene. Questo è un testo appunto di Francesco Arcattoli, che si intitola La Cruna. Ha questa forma, il lunedì di fine agosto, lo spiazzo slabrato dalle mareggiate, dove si infilano i cani e la gente del nord. Qualcuno dice che nulla sarà mai come qualche tempo fa, neppure si potranno fare bagni illimitati o stare bene. Ci resta quella settimana che vivevamo da bambini tremando, filtrando dalle finestre uno spillo di frescura. Anche il mare si allontana dall'arena, la cruna del mezzogiorno è spalancata, smisurata la conta delle onde. Ampio, bello, una bellissima immagine. E questo è un testo molto molto sì, forte, ha un immaginario intenso appunto di questo giovane poeta che parteciperà alla zattera. Strano, ho sentito il caldo come quando io devo avere un po' più anni di lui, ma ho sentito il caldo della mia infanzia e quindi ho visto il sole e anche le onde che andavano, quindi bellissimi. Una grande capacità di creare immagini. Farò i complimenti a chi l'ha scritta. Sì, molto bene. Ma ne hai per caso qualcun altro? Hai qualche altro, qualche altra chicca da regalarci? E c'è un testo che poi ovviamente anche in questo caso probabilmente rappresenta proprio la vera e propria allegoria dell'idea della zattera. Se volete posso leggervi questo, che sì, è un testo di Stefano Sanchini, tratto dalla Casa del Filo di Paglia. Da quassù volando vedi l'opera del falce e della mano paziente che hanno reso pace alla terra con il lavoro lento e costante di fatica e sudore impastati nel ventre, di gole accese nel canto, la semina in materni racconti, la gioia promessa del tuo raccolto, dolce scende a filari la vigna e sparse da mano impressionista le chiome d'olivo nella campagna. La luce esalta di nuovo la vista e tutto si fa fresco di colore e l'aria di profumi è piena. S'accende nella macchia il calore dei piumati che trascendono la pena. Cosa conta una casa grande e bella se non immersa in questa natura? Non è forse il tuo corpo la villa che s'apre all'alba oltre la pianura? Questo dovrebbe essere un manifesto. Un manifesto questo per le generazioni future. L'allegoria stessa, sì, sì, sì, è il testo che rappresenta bene questa idea che ci ha portato a realizzare questo piccolo evento. Ecco, quando di questo parco della... Ne approfitto perché quando dici che ci ha portato a organizzare, chi ha organizzato questo evento? Come nasce questo evento? Che questo è il secondo atto, ma mi sembra che abbia radici più lontane. Sì, perché c'è un lavoro di anni e anni di due artisti che hanno fondato una casa, appunto la Casa degli Artisti, proprio sotto la diga del Furlo, e si chiamano appunto Antonio Sorace e Andreina De Tomassi, e da anni portano avanti queste loro battaglie legate all'arte. Questa Casa degli Artisti ospita opere d'arte di altri autori che passano e che lasciano il loro segno all'interno di questo luogo. Infatti questa è già la seconda edizione della Zattera dei Poeti, di questa rassegna poetica. E quindi loro hanno portato avanti questa idea nel tempo e ogni volta chiedono ad un curatore diverso di collaborare, di unire le forze per rendere vivo questo evento. Poi loro procedono tutto l'anno nel lavoro, perché finito questo singolo evento di poesia ci sarà, si terrà sempre all'interno del Furlo una land art che dura un mese e ospiterà alla Casa degli Artisti scultori, scrittori, poeti, musicisti per un mese. Beh. Questo è il lavoro portato avanti dalla Casa degli Artisti, ovviamente in questo caso in collaborazione con la Riserva Naturale del Furlo, la Proloco di Acqualagna, del Furlo stesso, il Comune di Acqualagna, che hanno dato un contributo non economico ma di spazi ed altro. Beh, ognuno porta quello che c'è, insomma, bellissima questa idea della Casa degli Artisti che tu citavi, la Land Art al Furlo, che Land Art, che è la quarta edizione che si terrà dal 24 agosto al 22 settembre. Io ricordo invece, purtroppo il tempo scarseggia qui e tiranno, come dicevamo un po' di tempo fa qui a Radio Alma, tempus Tyrannosaurus Rex, così, per ridere e anche giocare con il latinorum. Mi ricorda qualcuno ai tempi di Quelli della Notte, molto tempo fa, fra Gesualdo. Bene, quindi dicevo, il tempo scarseggia e vorrei ricordare quindi a tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono soprattutto in streaming, la Zattera dei Poeti, visto che noi siamo a Bruxelles, ma ci seguono in streaming dall'Italia, volevo ricordare loro la Zattera dei Poeti, che è questo avvenimento importante, questo ritorno alla natura, anzi questo andare avanti verso la natura, il 27 luglio 2013, con partenza inizio alle ore 18 alla riserva del Follo con una processione poetica. E ci ha parlato e ci tiene vicini, ci ha fin dall'altra parte del telefono, è stato con noi Loris Ferri. Loris, tu vuoi aggiungere qualcosa? Io vi ringrazio tanto per l'ospitalità e la possibilità di raccontare questo percorso che è stato la Zattera. Bene. Ed è solo l'inizio, proseguirà. Certo, è solo all'inizio, noi vi auguriamo un sacco di fortuna. E io, se fossi là, andrei volentieri a vedervi. Non so se ce la farò, non credo, 27 luglio è troppo vicino per me da Bruxelles, però se fossi in Italia sicuramente un salto ce lo farei. Ti ringrazio infinitamente, se vuoi approfittare per ringraziare qualcuno. Ah, io ringrazio gli organizzatori ovviamente e tutti quelli che poi parteciperanno. Adesso sarà sabato, ringrazio in anticipo, perché tutto quello che succederà e accadrà sarà comunque una festa, per cui ringrazio tutti quelli che ci saranno. Bene, da parte nostra hai tutto, grazie, da parte nostra hai tutto l'appoggio di Radio Alma e dei suoi radioascoltatori, e veramente un grande in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto, magari dopo l'estate, per sapere com'è andata la Zattera dei Poeti. Grazie. Con molto piacere. Grazie infinito, Loris. Grazie per l'invito e grazie. Ci risentiamo. Ciao. L'imbrangolello, oh, sono fuori dal tunnel, dell'imbrangolello. No, no, stai entrando nel tunnel dell'imbrangolo. Sì, forse mi sono voluto disintossicare. Per me lui è entrato nel tunnel della droga, che è un'altra cosa. No, vabbè. Ci sono caduto da piccolo come Obelix. Obelix. Stasera avremo un librangolo un po' diverso dal solito. Non vi parlerò di libri che ho letto, ma piuttosto vi parlerò di rumors, di pettegolezzi che girano nel mondo dei libri, che per esempio a me inducono di incuriosirmi di certe cose che verranno, certe cose che sono già sul mercato ma che desidererei leggere. È una nuova rubrica, librangolo gossip. Qualcosa del genere. Abbiamo una nuova rubrica, mi prendono gossip. E la gossip comincia con il J.K. Rowling. J.K. Rowling. No, J.K. Rowling, cioè l'autrice della serie Harry Potter, che ha fatto un sacco di successo, che oramai ha fatto apparire anche un suo libro per adulti. Però non è questo il pettegolezzo è il fatto che lei, sotto un pseudonimo, abbia scritto un giallo. E questo sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, che ovviamente per adesso esiste soltanto in inglese, si chiama The Cuckoo's Calling, cioè il richiamo del culo. Il richiamo del cuculo. Beh, vabbè, dopo una domanda sui pseudonimi. Gli pseudonimi, no, ma il bello era che per mesi e mesi, il libro è apparso nell'aprile di quest'anno, sì. E per mesi e mesi l'autrice è riuscita a mantenere la segretezza sull'identità. È apparso quando? Aprile, quest'anno. Beh, mesi e mesi, siamo a luglio, eh. Sì, relativamente mesi e mesi. Poi, non so, un'amica dello studio legale che si occupa dei suoi affari ha fatto cadere, diciamo, il segreto a qualcuno che non era da fidarsi, e in fin dei conti è finito su Twitter e dopo ovviamente lei ha riconosciuto il fatto, eccetera. Però l'interessante è anche che lei si era anche molto arrabbiata, perché era interessata proprio in come sarebbe andato un suo libro da autrice, diciamo, da autore non conosciuto. E effettivamente le prime critiche su questo libro erano abbastanza positive. La si riteneva una voce fresca, non si capiva però come mai un autore maschile potesse avere una comprensione tale dell'animo femminile. Però comunque diciamo che il libro ha raccolto delle critiche positive. E in effetti sicuramente è stato rinfrescante per lei anche dopo che il suo primo libro per adulti, che in italiano non so come si chiami, non è riuscito ad attirare tanto apprezzamento. Gli italiani però. Cosa c'è con gli italiani? Beh, gli italiani, generalmente gli italiani non amano le persone che cambiano troppo, per cui se J.K. Rowling diventa famoso con Harry Potter mi va bene, invece che Harry Potter, Eleanor Potter, oppure l'albero di Harry Potter, oppure il figlio di Harry Potter, lo zio di Harry Potter, la famiglia, gli antenati. Però non ci piace che poi improvvisamente uno scriva un giallo che non ha niente a che vedere con Harry Potter, dice beh, perché non fai il tuo? Si vede che non soltanto gli italiani ma anche gli inglesi sono tradizionalisti. Non lo so quale sia diciamo la soluzione al problema, però fondamentalmente quello che sappiamo è che ora c'è un nuovo romanzo J.K. Rowling sul mercato, che da 1500 esemplari venduti fino a luglio ad un tratto si è sbalzato sui primi posti delle liste di vendita, ovviamente, e ci scommetterei il naso che fra poco sarà disponibile anche in altre lingue. Effettivamente già si parla di una edizione olandese entro l'autunno, eccetera. No, ovviamente la prima edizione non è mai tascabile. Tu hai mai visto un libro di cui prima edizione è tascabile? No, neanch'io. Comunque qua una copia firmata come Robert Galbraith di questo libro comincia a valere qualcosa su eBay, per esempio. Perché ha firmato anche... Perché ha fatto una dedica su uno dei libri della prima edizione con la sua firma, con la firma di Robert Galbraith, senza che ovviamente lei... Quindi ho capito, ma non è stata fatta in presenza cliente, cioè, scrittore? Mi sembra ovvio, a meno che abbia utilizzato qualche arte di Harry Potter, perché sono arte di è riconoscibile. la classica e vecchissima arte del make-up. Mm-hmm. Hard makeup. Very hard makeup. Questa notizia comunque a me mi ha incuriosito. Sarei anche curiosa di vedere questo romanzo, anche perché, cioè, comunque le critiche erano positive anche prima che si sapesse di chi si trattasse. E quindi prima o poi ve ne parlerò. Tu non ti fidi? No. Devo essere proprio onesto? Sì, onesto. No. No. Io sono curiosa, diciamo, la curiosità... A me dispiace quando i libri fanno successo dopo che si sa che è stato scritto una persona di successo. A me piacciono i libri come per esempio questo Richard Galbraith, che scrive un libro e dice Robert Galbraith, che scrive un libro e uno lo legge e dice beh, bel libro, ti consiglio Robert Galbraith. Però il fatto che si sia saputo che era lei... Sì, io ti capisco, però... diciamo, se tu scrivi un libro decente oggi, per arrivare fino ad essere un bestseller, non sarà mai da giorno a notte. No, certo. Cioè, diciamo che è possibile, è ben possibile che il suo libro, non in questi primi mesi ovviamente, ma piano piano, sarebbe comunque arrivato ad essere conosciuto. Non come Harry Potter, perché è impossibile praticamente. No. Non è impossibile, non è impossibile, però è pressoché impossibile, diciamo, ripetere quella esperienza. Però avrebbe potuto anche arrivare abbastanza, cioè, diciamo, nel calderone di libri che si leggono senza problemi. Diciamo che il problema è che oramai non potrà mai dimostrare se questo sarebbe accaduto o no, perché la sua certo. il suo pseudonimo è caduto a questo punto. Puoi inventare un altro? Beh, da oramai la si sospetterebbe. Allora, come si fa a sospettare di una persona che non si conosce? Voglio dire, uno manda un in teoria sì, però cioè, è andata comunque attraverso il suo editore normale, però sotto un altro nome, ha usato, cioè oramai secondo me appare un libro che qualcuno comincia ad annusare, dice ho dei dubbi, basta verificare un paio di cose e magari dicono identificato. Vabbè, queste sono tutte supposizioni, fondamentalmente sì, esatto. Come supposizione che uno studio legale abbia, non lo studio legale, un'amica dell'amica dell'amica, cioè comunque il problema l'amica è che dell'amica quando dell'amica era l'amica di una dello studio legale, anche magari la conosci George. Beh, in realtà c'è una persona nello studio legale che lavora e che conosce e che, però insomma, se tu fai del leakage o fai wiki leakage oppure lasci perdere. Comunque il leakage c'era stato e io passo ad un'altra cosa, perché non penserete mica che io mi fermo da J.K. Rowling. No, però volevo farti una domanda. Dimmi. Ma secondo voi, no, i fenomeni best seller come nascono? Cioè è veramente tutto farina dell'autore o c'è dietro veramente un grandissimo lavoro di marketing della casa editrice? Perché prendete per esempio l'autore che abbiamo consigliato la settimana scorsa, Marco Marsullo, sta vendendo un sacco di copie in Italia, era il suo primo romanzo, e lui ci ha detto all'intervista che lui spedì una copia ad Einaudi e andò tutto in porto. Vuol dire che il materiale era buono. Però quanta gente non riesce a fare questo salto però al materiale buono? Cioè secondo voi dietro c'è anche una strategia, un qualcosa, non lo so. Secondo me ci sono dietro varie cose. Cioè è vero che con il marketing riesci a propellere un libro in posizioni alti, se ci dai proprio di tutto, se spingi tantissimo. Ma quello che mi ha fatto un po' pensare era anche un po' l'analisi di un libro su come le piccole cose fanno dei grandi cambiamenti. E là, per esempio, abbiamo anche parlato di questo libro in una delle edizioni, dove si analizzava esattamente un libro che in modo insospettabile è arrivato sulla lista dei bestseller, e là invece era proprio il fatto che il libro è stato letto in club di lettura e quindi gruppi di persone parlandone hanno connesso personalmente e psicologicamente, diciamo, con il libro, e poi l'hanno anche raccomandato ad altri, eccetera eccetera eccetera, fino ad arrivare in cima. Quindi ci sono sempre due vie per arrivarci, sicuramente ce n'è anche una terza, il culo, però diciamo fondamentalmente ci sono due vie per arrivarci. La fortuna, intendevi dire? Scusate, la fortuna, cioè il parlare forbito qui, ah, no, è una parola ungherese che vuol dire grande fortuna. No, ma devo dire proprio culo, non è che mi ricordo, insomma non possiamo adesso. E quindi uno è il marketing e l'altro è il passaparola che comunque può far arrivare un libro abbastanza in alto. Beh, non so se avete letto il libro di Massimo Gramellini, quello che ha avuto un grandissimo successo l'anno scorso, è stato così col passaparola, cioè il fatto che lui fosse un giornalista della stampa che presentasse questo romanzo anche in televisione ha giocato, ma non certo da portarlo per più di un anno tra i primi 5 libri più letti in Italia. Beh, e è stato il passaparola anche. Quello che so della pubblicità è che la pubblicità, adesso vado a ripescare nei miei vecchi ricordi quando ci lavoravo, e Giorgio è vecchio, ve lo ricordiamo, ho vissuto 7 vite in una, quindi certo una vita precedente, in una della seconda vita è il nostro micione, facevo pubblicitario. Una regola fondamentale della pubblicità è che tu puoi spingere un prodotto al successo, ma questo successo, la durata del successo dipende dalla qualità del prodotto. Quindi il marketing lo può spingere, la pubblicità lo può spingere, quindi c'è un bel fuoco, ma il fuoco, se è di paglio o di legno, lo si vedrà dalla qualità del prodotto. Ci sono prodotti di qualità che invece hanno bisogno di molto più tempo, ma resistono al tempo. Quindi il prodotto di qualità lentamente occupa fette di mercato che diventano estremamente solide. Ci sono fette di mercato che sono occupate stabilmente da determinati prodotti. adesso io non posso fare nomi, si dai. Può fare nomi? No, dai, Imola. E allora non faccio nomi, per esempio una ditta tedesca che si chiama ha un prodotto che vende non in negozi ma casa per casa, e io credo che in Italia dei prodotti della ce ne siano una ce ne sono molti, stai parlando. Ce ne sono molti e la gente continua a riprendere, non è che cambia, perché è un prodotto buono che resiste eccetera. Poi vabbè, lì è un'altra questione, il marketing può anche rovinare, ci possono essere degli errori eccetera, però il prodotto buono è la condizione fondamentale, la condizione sine qua non per avere un successo che non sia semplicemente un fuoco di paglia. Dai. Eccetto nel mondo dei libri, dove il fatto che prima altri abbiano comprato massivamente un libro conduce ad altri a comprare il libro, e magari se non è di qualità lo lasci a metà, ma nel frattempo l'avevo già comprato. Sì, però il passaparola qui funziona allo stesso modo. Non è vero, purtroppo non è vero. Sì, funziona solo cioè, per esempio, fra i libri di successo più lasciati a metà fa parte esattamente le famose 50 sfumature di grigio, che comunque la gente continua a comprarsi. Sì, è vero. Non c'entra. Cioè, è vero che se facesse tanto schifo, allora sì, la passaparola funziona, però già arrivato è molto di rado che un libro cadesse, eccetto se davvero ha finito, diciamo, il suo ciclo di potenzialità. E sono parzialmente d'accordo con te, nel senso del perché è nato 50 sfumature di grigio, da un'operazione pubblicitaria o è stato scritto il libro e poi è diventato famoso? Non so. Ecco, perché il problema è proprio quello. Dai, lasceremo questa domanda dispersa dei vampiri. La domanda, sì, possiamo lasciarla fino alla prossima. Dai, poi mi sembra che Imola avesse qualche altro consigliuccio. Dai, sì, io non anche. Abbiamo 5 minuti. Avevo un'altra cosa, ma mi so per 5 minuti. Non riesco a farne 5 minuti. Non riesci a farne 5 minuti? Dai, ritieni in servo per la settimana prossima. Beh, allora io cosa faccio nel frattempo? Lo tieni in servo per la settimana prossima? Eh sì, volevo parlare di Brené Brown. No, allora no, allora bisogna riservarsi 15 minuti, signori. Stiamo parlando di Brené Brown. Stiamo parlando di T.E.D. No, non di T.E.D. Cioè, nel senso, l'ho conosciuto via T.E.D., ma lei ha scritto dei libri. E certo. Io oramai sono abbastanza incuriosita da volerle leggere, però diciamo che non è un tema da 5 minuti. Quindi vi lascio piuttosto l'occasione di parlare di alcuni eventi a Bruxelles. Anche i 30, bellissima battuta, grazie. Quindi il gossip sarà per la settimana prossima. Può darsi, o comunque ritorneremo. Esattamente con Danny Brown. Sì, importante Danny Brown. Lì però sconfiniamo un po' nella filosofia. Ma forse non prendere proprio suspense. Qualcosa di particolare proprio solo per Danny Brown. La suspense viene dalla regia, dall'altra parte dell'acquario. Dici. No, in realtà creiamo un po' di suspense dicendo che la questione rimane aperta e irrisolta e alla prossima volta punto interrogativo. Così creiamo un po' di attesa per l'ultima puntata di Bruxellando, che chiuderà appunto questa edizione. Ma nel frattempo. Se conoscete qualcuno che non è mai stato a Bruxelles, o che a Bruxelles di Bruxelles conosce poco, o che è un expat, o che debarca a Bruxelles, come si dice, il nostro regista, no, il vostro regista anche, ma chiunque. Scherzavo. In realtà, perché c'è una grandissima, un'interessantissima iniziativa che si chiama Once Upon a Time in Brussels. Sono delle visite guidate insolite su bicicletta elettrica. È aperta a chiunque sia più alto di 1,60 m, sappia andare in bici e soprattutto sia disponibile a percorrere una giornata in gruppo, un gruppo di 10 persone. Ci sono delle visite, diciamo, insolite, dove il visitatore in bicicletta scopre delle parti meno conosciute di Bruxelles in gruppo e con degli aneddoti molto simpatici. Vi consiglio di visitare il sito www.onceinbrussels.be. E insomma sarà valido per tutta l'estate, per cui se il tempo è così bello io ne approfitterei, almeno un italiano, qualcuno che arriva qui a Bruxelles che non sa cosa fare, una domenica va a farsi un giro in bici e scopre Bruxelles. Mi sembra un'ottima idea, poi con questo caldo a me piace moltissimo, quindi andare in bicicletta, sentire la brezza che mi sbatte in faccia mentre pedalo, insomma questa è una bella sensazione. C'è qualcosa, Imola? c'è un altro evento, stavolta nelle Marolles, dove hanno fatto bel un posto. Percorso di art émerge, quindi sono delle opere, soprattutto dei quadri che sono esposti nelle vetrine dei negozi delle Marolles, che ovviamente sono un po' anche sulla margine, diciamo, del mondo artistico, magari degli artisti meno conosciuti, e che dovrebbero attrarre anche diciamo più la gente nel quartiere, di far vedere un po' le potenzialità del quartiere. Quindi potete andare a fare una passeggiata, ammirare le opere, e potete visitare il www.artemarge.be per saperne di più. Beh, io direi che con questa Artemarge siamo arrivati alla fine di questa puntata, perché ormai manca meno di un minuto e il nostro regista ci ha caldamente fustigato per dire, imponendoci le 57 come ora di chiusura, trovandoci delle scuse impensabili su bitte che se ne partono a parlare, sono finiamo in tempo, insomma, non so, una cosa che ha capito solo lui, ma io so che devo chiudere. È un grande regista, l'unico che ci capisce qualcosa in questa marea di bottoni e bottoncini di cui non capisco assolutamente nulla. E nemmeno lui. E nemmeno lui, però le cose funzionano, questo è importante, quindi approfitto e ringrazio